Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parleremo di un argomento che tocca da molto vicino il cibo. Il cibo ormai è protagonista della scena e lo è anche il biologico. Il biologico se ne parla sempre di più, il mercato cresce. 3,1 miliardi di euro ormai è il mercato del biologico in Italia, quindi sicuramente un mercato che non è più nicchia, ma è diventato, come si suol dire, vero mercato. E tanti sono gli interrogativi: se il bio è più buono, se è più salutare, se è più caro del convenzionale. Ma soprattutto io vorrei iniziare questa chiacchierata, questo lungo viaggio, da chi dà la patente di bio ai prodotti. E qui andremo a parlare di agricoltura, perché soprattutto l'agricoltura è bio, e poi diciamo il prodotto lo diventa, ma se non è bio l'agricoltura, il prodotto non può diventare bio. E andremo a vedere anche diversi prodotti con diverse caratteristiche. Ma prima di cominciare a parlare con Paola Donati dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, io darei il numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, per gli sms, perché credo che tanti siano gli interrogativi anche dei nostri ascoltatori. Buongiorno Paola Donati. Buongiorno. Ecco, io vorrei proprio cominciare da questo. Quando e come si dà la patente di bio a un prodotto? Allora, la patente di bio a un prodotto è una cosa abbastanza, ha un suo percorso articolato e complesso. Ecco, infatti questo qui è sicuramente, si può stringere, perché mi rendo conto che magari si lasciano alcune parti, però è importante. Allora, diciamo che inizialmente parte dal produttore che vuole entrare in questo sistema di produzione, che ha determinate caratteristiche. La richiesta però viene inoltrata, vengono fatte tutta una serie di verifiche, di controlli in campo e viene attivato un processo. Dopodiché, una volta che si è stabilito che questa azienda ha le caratteristiche giuste, la qualità dei terreni, eccetera, per poter entrare in un percorso del biologico, può cominciare a coltivare secondo questo sistema, ma non è subito dichiarato biologico in conversione, cioè devono passare, a seconda delle colture, dei periodi di transizione prima che il prodotto possa avere la necessaria etichettatura e essere venduto sul mercato come prodotto biologico. Ecco, abbiamo già un radioascoltatore, immaginavo che ci fosse interesse. Andrea dalla provincia di Ancona, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a lei. Senta, io sono un agricoltore, dall'esperienza mia sul biologico sto lavorando proprio in questo momento in cavolfiori. Beh, ho usato un prodotto biologico, poi sono dovuto intervenire con il tradizionale, benché anche il tradizionale me li stanno mangiando proprio, non dico tutti, ma quasi. Quindi secondo me con di biologico è quasi impossibile. Poi gli dico un'altra cosa. Fino a quando non sarà vietato vendita di prodotti antiparassitari con lo scontrino fiscale, gli ho detto tutto. Bene, Paolo Donati, abbiamo già, come si dice, pane per i nostri denti. Allora, il biologico è impossibile? No, direi di no. Lo testimoniano, adesso poi bisogna vedere le caratteristiche di questo produttore, insomma, messo così, sì, certo, molto. Voglio dire, il suo tentativo, sicuramente avrà fatto una serie di tentativi, è un percorso, è una crescita, è una cultura, è un'informazione che si acquisisce anche con la pratica e con lo scambio anche con i tecnici, ma anche con altri produttori che stanno praticando questo metodo. Quindi, come dire, non è una cosa per cui si decide di farlo e le cose succedono, proprio perché non puoi ricorrere, avere le scorciatoie di un prodotto di chimica di sintesi che ti elimina un problema. Insomma. Senta, nelle colture biologiche si usano comunque antiparassitari e agrofarmaci? Sì, ma però sono tutti. Esiste un regolamento europeo, e nel regolamento europeo, quindi sono indicati che cosa si può essere utilizzati, ma sono tutti a base naturale, non sono chimica di sintesi, e quindi prodotti che naturalmente possono essere utilizzati in agricoltura, nell'agricoltura biologica. Ecco, vedo già che arrivano altri SMS, la differenza tra biologico e biodinamico, questo ci porta molto, molto lontano, quindi io oggi vorrei rimanere sul biologico. E sentiamo Livio da Roma, un altro radioascoltatore, buongiorno Livio. Buongiorno signor Paolini, senta, io volevo dire questo, sono d'accordo con l'ascoltatore precedente che ha detto che in Italia è quasi impossibile sviluppare. Perché scusi, in Italia, negli altri paesi invece sì, volevo chiedere, ma perché è solo in Italia, negli altri paesi invece è possibile? No, però in Italia purtroppo c'è molta gente che lavora bene, veramente bio, tanta è frutto di speculazioni varie. Allora, se noi consideriamo che oggi il 70-80% dell'agricoltura è in mano alla mafia, alle forze mafiose che aprono negozi con extracomunitari adibiti alla vendita, sì, e sfruttati. Secondo voi, nei negozi, se lei va in giro nei supermercati, lei trova praticamente che non è esposto il punto di provenienza della merce, al che ci mette a rischio che tanta merce della Campania non è che la buttano via, ma la vendono a noi. Senta Livio, però mi scusi Livio, abbiamo capito benissimo, ma il problema della provenienza non è solamente nei prodotti bio, è un po' in tutti i prodotti, cioè in moltissimi prodotti, a cominciare dal pesce, quindi sicuramente non è solamente un fatto riservato al bio, ma in generale che ci sono pochi controlli sulle etichette, su questo non ci sono dubbi. Torniamo al bio, è più buono, è più salutare, ma costa più caro? Interrogativo. Tutti interrogativi che stiamo ponendo, che vogliamo che appunto i nostri ospiti risponderanno, ma sentiamo anche, vedo che c'è un interesse enorme, perché già telefonate ed SMS sono tante. Ripeto, numero verde 800 24 00 24. Stefano da Verona, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno a lei, una domanda alla vostra ospite. Io come faccio ad essere sicuro che il bio che compro sia effettivamente bio? Vi spiego. Nella mia fantasia c'è un campo di cavolfiori, come quello dell'ascoltatore precedente. Accanto c'è un campo di insalata non bio. Allora io come faccio a sapere, lei come fa a sapere che ne so, il prodotto antiparassitario non vada nella falda, perché è cosa nota che va nelle falde anche se in minima quantità, o che ne so, le lumachine non trasmigrino da un campo all'altro, o gli insetti non impollino da una parte e poi dall'altra, perché comunque è tutto vettore di sostanze chimiche. La ringrazio. Bene, Paola Donati, a lei di nuovo. Questo sì è un annoso problema, è uno insomma delle questioni che vengono spesso sollevate. Allora, un'azienda biologica non è soltanto un campo dove si coltivano dei cavolfiori, ma è un insieme, un ecosistema, per cui hanno... le faccio un esempio: nella mia regione, nell'Emilia Romagna, le ciliegie nella zona di Vignola, i produttori biologici della zona di Vignola hanno delle siepi di separazione, di protezione, una parte della produzione, quella più vicina ai campi, non viene considerata ai campi limitrofi di quelli che vengono considerati contadini convenzionali, non viene considerata biologica, quindi ci sono tutta una serie di attenzioni e di protezioni che vengono messe in atto, compreso il controllo della qualità delle acque, delle acque che vengono utilizzate per irrigare le piante. Cioè, è vero che il mondo è vario e le possibilità di contaminazione comunque possono essere, ma poi i prodotti vengono anche sottoposti ad analisi. Nel caso che si riscontri una contaminazione, il prodotto esce viene venduto come convenzionale, quindi in questo caso anche con una perdita dello stesso produttore. Bene, io vorrei mettere sul tavolo un altro argomento, che può esistere anche il naturalmente biologico, io diciamo lo definisco in maniera grossolana così, cioè ci possono essere anche degli agricoltori che producono in maniera biologica, ma non vanno a ricercare il bollino bio, pur essendo biologici al 100%, quindi può esserci anche questo come discriminazione sul mercato. Ma sentiamo Mario dalla provincia di Cuneo, un altro radioascoltatore, buongiorno Mario. Buongiorno, io sono un agricoltore biologico e sentivo i miei colleghi prima dicendo che era impossibile. Io ho circa 45 ettari a cereali, mais, orzo, grano e da alcuni anni anche erbe officinali, finocchio da seme e camomilla. E io invece dico che il biologico si può fare. Si può fare, si può fare anche bene, ovviamente bisogna attrezzarsi, bisogna avere anche le macchine per coltivare superfici elevate, bisogna anche invertarsi le macchine perché sul mercato non ci sono, però è una cosa che è sostenibile ed è fattibile, sostenibile economicamente e è fattibile. I problemi poi ci sono, sentivo prima della deriva, quello è un problema molto, molto difficile, ma lì dovrebbe essere un problema più dei agricoltori convenzionali, non dovrebbe essere un nostro problema. Ma diciamo che è arrivato proprio ora sul sito del Gastronauta una nota che secondo me è interessante, perché dice: e chi controlla i prodotti convenzionali? Chi controlla che siano sani e non contaminati? Ecco, anche questo è un problema secondo me da mettere allo stesso pari di quello di cui stiamo discutendo. Ma abbiamo un altro ospite importante del settore bio, che è Lucio Cavazzoni, presidente di Alcenero e Mielizia. Buongiorno Lucio. Buongiorno. Diciamo che lei ha vissuto in questi anni veramente un grande sviluppo del mercato bio. Ecco, come lo vede? Vede che è ancora, nonostante la crisi, sta camminando, sta crescendo, oppure ha un momento di rallentamento come tutti i consumi? No, guardi, allora, il biologico sta crescendo in tutto il mondo, la cosa più bella è che sta crescendo veramente in tutto il mondo. Quando dico tutto intendo il primo, quello che una volta era chiamato il secondo, e a grandi passi anche quello che noi una volta chiamavamo il terzo, tra il fatto che fra un po' il terzo corriamo il rischio di diventarlo noi. No, sta crescendo ovunque. Se mi permette, io vorrei inserire un contenuto che è questo: il biologico e l'agricoltura biologica e il cibo biologico, che sono tutte questioni estremamente importanti, non rappresentano il fine. Il fine è rappresentato dalla possibilità di ricostruire una relazione sostenibile, corretta, vera, fra la persona e il suo ambiente, e l'ambiente in generale, e il sistema, e il cibo del quale diventa fruitore. Questo è il tema e l'obiettivo che ha il biologico e che ha l'agricoltura biologica. Ora è evidente che il biologico deve essere un prodotto sano, e tutto il nostro lavoro è veramente fatto, come diceva l'ascoltatore poco fa, per limitare i danni dell'agricoltura convenzionale, ma il punto vero è che il biologico guarda molto più avanti, tenta di ricostruire, lavora e opera per ricostruire una relazione. Finisco per dirle che in realtà è questa l'agricoltura vera, cioè il biologico molti anni fa era, ai tempi dei pionieri del biologico, era un'idea forza, poi forse in parte è diventata un'ideologia, dopo è diventato un mercato. Oggi siamo di fronte alla necessità, io lo chiamo il biologico 3.0, la necessità che il biologico soppianti l'agricoltura, non è più una nicchia il biologico. Il biologico è obbligato a crescere e crescerà, perché innanzitutto cresce grazie all'idea, alla testa della gente, alla loro interesse. Bene, io diciamo ho capito fino in fondo questo discorso, Cavazzoni, è molto importante. Io le aggiungo comunque che intendiamo in questo mondo anche quello che io chiamo naturalmente biologico, di molti agricoltori che fanno un'agricoltura che è sana e che è biologica senza molte volte ricorrere alla certificazione, perché ce ne sono, io credo, certo, in questo mondo. Certo. Quindi, sentiamo Daniele da Bergamo, radioascoltatore, rimanga con noi Lucio. Buongiorno, grazie. Prego. Posso parlare? Certo. Una domanda molto semplice. È verificabile con analisi di laboratorio una differenza tra un prodotto bio e un prodotto non bio? Paola Donati, a lei. Sì, è verificabile perché, allora, c'è un principio della fisica. In natura nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. E questa cosa vale anche per il bio, nel senso che, come in tutti i prodotti, nel senso che ci possono essere residui, molecole, quindi in laboratorio è verificabile questa cosa, se ci sono stati ma non necessariamente con, voluti, insomma, possono essere anche del tutto accidentali queste contaminazioni, e queste contaminazioni sono verificabili. Volevo aggiungere però una cosa, riprendendo quello che aveva detto Cavazzoni. Il tema dell'agricoltura biologica è il tema della biodiversità nel suo complesso, quindi è come dire, un approccio all'agricoltura che non vede soltanto la produzione in campo, il prodotto che poi andrà sulle mense, la sua trasformazione, eccetera, ma cerca un equilibrio nel rapporto di chi coltiva con l'ambiente che lo circonda, ed è fondamentale soprattutto perché quella che viene definita l'agricoltura convenzionale, quindi l'agricoltura quella con la chimica, quella che conosciamo, le grandi estensioni della pianura padana, il mais, eccetera, depauperano questa biodiversità profondamente, e noi abbiamo bisogno di ricostruirla, di fare in modo che il terreno, che la terra stessa torni nutrimento per le piante e che non si usano dei succedanei per poter nutrire una pianta, perché il terreno non è più capace, è stato depauperato di tutte le sue sostanze. Quindi l'agricoltura biologica, biodinamica, è nel loro insieme, loro guardano alla salute della terra nel suo complesso. Bene. Quindi, Grazie a Paolo Donati della sua presenza, del suo intervento. Io voglio chiedere a Cavazzoni, c'è un SMS che credo sia abbastanza importante in questo dibattito. È possibile che l'azienda controllata sia cliente del controllore? Beh, guardi, non dovrebbe essere possibile. Purtroppo questo è, come dire, una debolezza del nostro sistema di controllo, e devo dire che si sta dando da fare il nostro sistema di controllo in Italia per cambiare. È molto impegnato per cambiare, perché deve cambiare. In realtà in qualche modo funziona così, cioè la legge dice, demanda a tutta una serie di funzioni diverse, alla fine a degli enti che sono una quindicina in Italia, troppi, i quali fanno controllo, e il produttore diventa cliente, cioè chiede e paga al controllore di poterlo controllare. Chiaramente questo diventa una situazione debole. Devo dire però che questo è una situazione debole, devo dire che però c'è un forte tentativo da parte delle organizzazioni di controllo di cambiare, perché il controllo è fondamentale proprio per garantire, per dare garanzia, per dare sicurezza. Beh, sentiamo Liana dalla provincia di Ferrara, una radioascoltatrice. Buongiorno Liana. Buongiorno a tutti quanti. Senta, io volevo portare la mia esperienza molto limitata. Io ho conosciuto quasi 30 anni fa una persona che aveva in mente di trasformare la sua azienda agricola in biodinamica. Me la sono ritrovata dopo circa 20 anni con un'azienda biodinamica che funzionava, con un allevamento che funzionava, dimensioni medio-piccole, però con tutte le difficoltà che aveva affrontato. Mi risulta che questa azienda non abbia la certificazione, non so, io non conosco, però devo dire che ho imparato a conoscere queste persone, e io sono diventata una forte consumatrice sia di prodotti che acquisto in questa azienda, sia anche tutti i prodotti che trovo al supermercato, nella grande distribuzione e anche in catene specializzate. E purtroppo io mi sono sempre fidata anche delle certificazioni. Guardi, proprio questa mattina un'esperienza che mi ha scioccato. Prodotti che io acquisto da sempre di una marca certificata bio, ho visto fagioli cannellini che io pensavo fossero un prodotto abbastanza semplice da produrre biologicamente in Italia, prodotti in Cina con la certificazione. Ecco, io sono rimasta molto perplessa, e devo dire che a questo punto... Ma scusi, lei è rimasta perplessa perché è un prodotto cinese certificato bio? È questa... prodotto cinese certificato bio. Cavazzoni, è possibile questo? Certo è possibile. Certo è possibile. È possibile, e devo dire, io capisco perfettamente, sono molto d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che l'aspettativa è quello di avere un prodotto fatto vicino, l'aspettativa di tutti è sempre più questo. Però è possibile, perché no? Perché Il problema è come sarà stata la situazione cinese, tutto quanto, i passaggi, lontananze, questo è quello che punto, grandemente. Eccoci di nuovo a parlare di bio, devo dire che siamo pieni, ricchi di sms, tutti molto molto scettici, comunque poi ritorneremo, ne leggerò qualcuno. Numero verde 800 24 00 24, doveva riprendere Cavazzoni il discorso che aveva interrotto, di nuovo Cavazzoni a lei. Grazie, volevo dire che siccome la certificazione è uno strumento molto importante e indispensabile, perché indispensabile soprattutto per quando un prodotto deve andare lontano, perché come si fa a garantire un soggetto terzo quando un prodotto deve andare lontano? E noi siamo grandi produttori alimentari di cose straordinarie, molto spesso i nostri prodotti vanno lontano, il nostro Made in Italy per fortuna va lontano e questo aiuta molto i nostri agricoltori. Però il tema della certificazione è uno strumento, in realtà l'obiettivo, lo dicevo prima, è quello della relazione, è quello di ricostituire la relazione, quindi quando il fruttore di un prodotto, che noi non chiamiamo mai consumatore, ma il fruttore di un prodotto ha voglia, perché ne sente la necessità e ha l'occasione di incontrare e di conoscere veramente un agricoltore che lavora bene e quindi che lavora, come diceva lei Paolini, biologico, anche se non è certificato, non c'è nessun problema. Il punto vero non è la certificazione che fa, la certificazione deve garantire quantità di fruttori molto vaste, molto grandi e anche molto lontani fra loro, ma certamente che uno può fare biologico senza essere certificato. E siccome l'obiettivo finale è proprio quello di ricostruire una relazione, un rapporto, deve assolutamente crescere questa agricoltura, perché è l'agricoltura vera. Grazie, grazie, la ringrazio della sua partecipazione. Lucio Cavazzoni, sentiamo Francesco da Ferrara, un radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide Save, il mio intento era semplice, siccome generalmente credo l'agricoltura biologica, questa filosofia sia nata sulla base della ricerca anche di un tipo di prodotto più, diciamo così, semplice anche in termini di additivi chimici, credevo se in qualche modo potesse essere esposto e quello che può essere il valore aggiunto, che a mio avviso è il sapore. Bene, ne parleremo di questo. Guardi, abbiamo un'esperta che ci parlerà, affronteremo questo argomento. Ma io voglio leggere però un sms che raggruppa un po', come posso dire, il senso di tantissimi interventi che vedo appunto sullo schermo. C'è troppa burocrazia nel bio, la visita spesso si concentra sulla carta e poco sul campo e poi gli ispettori sono sottopagati. Io non so se siano sottopagati o no, però credo che se ci fosse qualche agricoltore, appunto qualche produttore biologico, un imprenditore, quindi in ascolto, che vuole dare la risposta a questo, che se c'è troppa burocrazia, io credo che in questo paese sia la burocrazia sia ormai ovunque e sia disastrosa su tutti i settori, a cominciare proprio da quello alimentare per passare poi soprattutto anche al mondo del vino. Ma continuiamo, abbiamo parlato di prezzo e io ho detto all'inizio, uno dei miei interrogativi, se il bio costa di più, se costa di più e se anche questo è giustificato. Allora io lo voglio chiedere a un docente di economia ed estimo rurale dell'Università di Bologna, a Maurizio Canavari. Buongiorno professore. Buongiorno. Ecco, volevo chiedere, ma costa davvero di più il bio e ha una sua giustificazione su questo? Sì, diciamo che occorre innanzitutto una premessa, che poiché il biologico copre tutta la possibile gamma dei prodotti agricoli ed alimentari, fare diciamo una generalizzazione che sia valida in ogni situazione è veramente Beh, certo. È difficile. Comunque è anche importante distinguere l'aspetto costo dall'aspetto prezzo di vendita, in particolare prezzo al consumo. Se restiamo nell'ambito diciamo agricolo, quindi dell'azienda agricola, i costi del biologico possono essere ricondotti a vari aspetti. È chiaro che in qualche modo l'agricoltore biologico rinuncia, come è stato detto prima dalla dottoressa Donati, alla chimica di sintesi in particolare, che offre tanti strumenti validi all'agricoltore tradizionale per portare avanti la propria attività. da questo punto di vista in un certo senso risparmia sui prodotti chimici di sintesi, ma questo può portare per esempio a una necessità di sostituire questi prodotti con altri interventi o con altri tipi di prodotti che sono ammessi nell'agricoltura biologica, e questo in molti casi può avere un costo maggiore. Inoltre non bisogna sottovalutare i costi, chiamiamoli così, di apprendimento, quindi di acquisizione di una conoscenza specifica quando si affronta un sistema di coltivazione che è diverso e che quindi richiede un certo tempo per riuscire a gestirlo al meglio, e quindi sono necessari poi anche degli investimenti per le innovazioni organizzative, per le macchine che magari possono essere specifiche. Questo chiaramente può incidere sulla singola azienda, così come incidono in parte i costi e i servizi di certificazione. Questi possono essere pagati dalle aziende in modo diverso, o in quantità fissa o in proporzione alla produzione o una combinazione delle due cose, però comunque rappresentano un costo per l'agricoltore. È stato detto prima che la certificazione non è obbligatoria, è vero, nel senso che un agricoltore può senz'altro condurre la propria azienda in biologico senza richiedere la certificazione, ma poi deve avere dei clienti che si fidano, certo, del fatto che lui sia biologico, certo, e quindi certo, che lo conoscono direttamente. Se certo si vuole andare sul mercato e dire questo prodotto è biologico e apporre il bollino, la certificazione è necessaria, certo, è facoltativa. Ecco. Lancio una provocazione, è naturalmente biologico. Inoltre bisogna considerare, riprendendo anche l'intervento del primo ascoltatore, che possono esserci, a seconda delle colture, delle condizioni climatiche, di vari aspetti, maggiori rischi di perdita di produzione a causa delle avversità delle colture, quindi infestazioni di insetti che sono stati nominati dal primo ascoltatore sui cavolfiori sono diciamo all'ordine del giorno, certo, nell'agricoltura, ma l'agricoltore tradizionale può avere degli strumenti in più per combatterla che il biologico non può utilizzare, o se li utilizza quel prodotto viene declassato e quindi non può più essere venduto come biologico. Grazie professore, quindi, grazie professor Cannavari, ci ha chiarito moltissimi, moltissimi punti, credo che l'abbia chiariti anche molti radioascoltatori, ma sentiamo appunto un radioascoltatore da Forlì, dalla mia città. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Prego. Io volevo lanciare una provocazione radicale, quindi magari qualcuno forse sobbalzerà. Sono fermo sulla sedia, guardi, stia tranquillo, sono fermissimo. Che però parte da dei ragionamenti, se vogliamo, sia di marketing, ma soprattutto anche di comprensione della sostenibilità, sì, del pianeta. Cioè, io dico, in questo momento di crisi generale di un po' di tutto in questo paese, perché l'Italia non dovrebbe, potrebbe diventare un giardino biologico in cui sono banditi, intendo dire in termini proprio di paese, di sistema paese, quindi a livello governativo, tutte quelle forme di agricoltura che non sono sostenibili, che non sono biologiche? E questo ovviamente genererebbe, adesso la dico proprio come provocazione, una differenza di colpo immediata, ovviamente ci vorrà, sì, tempo, però darsi una rotta, cioè la rotta di far diventare questo paese un paese in cui le persone vengono perché non solo per le nostre bellezze che tutti ci riconoscono, ma anche perché da qui e forse a qualche anno si comincerà ad avere la certezza, perché bene, ci può essere solo quel tipo di prodotti, di un paese in cui si fanno le cose bene, si mangiano le cose, beh, più buone del mondo, se c'è un'agricoltura sostenibile. Grazie, grazie Andrea, abbiamo capito la sua rivoluzione, insomma, che sì, è una rivoluzione per modo di dire, comunque è una proposta. Ma ora io voglio tornare a un altro argomento che avevo lanciato, quello della qualità nutrizionale dei prodotti dell'agricoltura biologica, al sano, al salutare. Bene, abbiamo con noi Flavio Paoletti, un ricercatore del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ex INRAN, che ha curato una raccolta scientifica di studi appunto da questo titolo, sulla qualità nutrizionale, che credo sia molto importante. Credo che sia molto difficile, Paoletti, fare una sintesi, però ci può dare uno spunto da cosa emerge da questa lunga ricerca, perché mi immagino che non è così, così facile. No, intanto buongiorno a tutti quanti, grazie per avermi chiamato. Sì, diciamo, vorrei fare prima di tutto una precisazione, perché diciamo, questo lavoro che noi abbiamo eseguito, che abbiamo effettuato, è quello che una volta si sarebbe chiamata una rassegna bibliografica in termini tecnici, nel senso che abbiamo preso lavori della letteratura, abbiamo utilizzato dei criteri di selezione e abbiamo cercato di vedere se c'erano degli andamenti per alcuni composti, per alcune sostanze di interesse nutrizionale che potessero essere indicati come differenze tra biologico e convenzionale. Parallelamente a questo, io l'ho fatto in tutte le situazioni in cui mi è stato chiesto di presentare questo lavoro, io ho sempre portato, anche a supporto, devo dire a questo punto, dei risultati che noi avevamo ottenuto, anche risultati di quelle che normalmente e comunemente ormai vengono chiamate meta-analisi, che vengono ormai pubblicate in numero piuttosto ampio veramente nella letteratura scientifica, soprattutto su questo argomento, so che ne stanno uscendo già delle altre rispetto a quelle che già ci sono, quindi ci saranno ulteriori informazioni, in cui l'approccio è un pochino diverso, nel senso che vengono utilizzati sempre dei criteri di selezione degli articoli, ma i risultati vengono in qualche maniera standardizzati, in modo da individuare, anche con un supporto di ulteriori analisi statistiche, veramente delle tendenze chiare. Ora, devo dire che a questo punto, anche fortunatamente per il lavoro che abbiamo fatto noi, gli andamenti più o meno sono gli stessi, nel senso che quello che si può dire è che generalmente è possibile trovare nei cereali un minor contenuto di proteine, questo da un punto di vista nutrizionale non ha nessuna rilevanza, anche perché la composizione in aminoacidi di queste proteine è essenzialmente la stessa, però può averla da un punto di vista tecnologico, quindi per la qualità della pasta e del pane. Bene, Paoletti, rimanga con noi perché ora devo passare la linea alla regia, ma forse prima sento Dario dalla provincia di Milano. Buongiorno Dario, veloce buongiorno. Però. Buongiorno, veloce. Sì, cercherò di essere veloce. Allora, io mi occupo di legislazione alimentare, sono un chimico, e voglio dire che, come appunto stava dicendo il dottor Paoletti, la qualità nutrizionale degli alimenti biologici è stato provato, insomma, ci sono moltissimi lavori che provano che sostanzialmente è la stessa degli alimenti tradizionali, quindi non c'è una differenza nutrizionale tra un alimento biologico e un alimento convenzionale. Quelli che credono che gli alimenti biologici abbiano residui di sostanze o di pesticidi inferiori, quindi siano più sani e più in qualche modo salutari rispetto agli alimenti tradizionali, secondo me prendono un abbaglio, perché sostanzialmente si sta parlando di pesticidi tradizionali, cosiddetti tradizionali, ovvero di carattere naturale, ma questo non significa che siano meno tossici. Insomma, questo discorso dell'alimentazione biologica non ha un fondamento scientifico per poter essere definito migliore rispetto all'agricoltura tradizionale. C'è un fattore di marketing, per carità, io non ho niente contro il marketing né contro il fatto che alla fine si facciano più soldi facendo il biologico. Non dimentichiamo che chi si converte all'agricoltura biologica viene anche, diciamo, riceve sussidi da parte della Bene, comunità europea. Grazie Dario, peccato che sia intervenuto solo in fondo, ho tantissime telefonate ma non riesco, perché ora dunque volevo far intervenire Tullia Gallina Toschi, docente di analisi degli alimenti, tecnologie alimentari e impatto ambientale dell'Università di Bologna. Perché? Perché all'inizio avevo anche lanciato un interrogativo: se il bio è più buono. So che non si può rispondere, professoressa Gallina Toschi, a questo interrogativo, ma la percezione, ecco, andiamo alla percezione, è un indicatore di qualità anche sensoriale la percezione del biologico, secondo lei, secondo le ricerche a cui lei ha partecipato a livello europeo? Buongiorno. Buongiorno, dunque, allora, la domanda può essere appunto quella che lei mi ha fatto, cioè il bio è più buono. A questa domanda io rispondo non necessariamente, ossia può essere in alcuni casi più buono o può essere meno buono, perché le variabili che coinvolgono la qualità degli alimenti sono moltissime. Le faccio un esempio: se io ho un olio extravergine bio, ma questo olio è rancido, è vecchio, è della scorsa campagna olearia oppure è di questa campagna olearia, è mal conservato o l'impianto non era in corrette condizioni igienico-sanitarie, è evidente che bio o non bio, questo è un prodotto che qualitativamente non è accettabile. Quindi abbiamo dei prodotti eccellenti tra i bio, abbiamo dei prodotti eccellenti convenzionali. E quindi ecco, diciamo, la seconda sua domanda è: magari piace qualcosa di diverso agli, chiamiamoli, utenti, cittadini, consumatori, sì, bio? Ecco, a questo sì, a questo già si può rispondere. Per esempio, questo progetto europeo Ecropolis, nel quale come Università di Bologna siamo stati coinvolti, tra le varie domande si poneva anche questa. E sicuramente la fascia dei consumatori, di coloro che sono interessati al bio, ha gusti diversi dagli altri e forse anche attenzioni diverse dagli altri. Bene, questo è molto interessante, questa parte finale, perché secondo me coglie nel segno. Sì. Abbiamo con noi anche un, diciamo, un personaggio che è un ricercatore, è un chimico, ma ha scritto libri veramente molto interessanti e quindi anche a suo modo un gastronomo chimico e un attento osservatore, Dario Bressanini. Ultimamente ha scritto un libro, Le bugie nel carrello. Io gli voglio chiedere, Dario, sul tuo libro non c'è la parte bio. Se tu dovessi scrivere una pagina finale su questo tuo libro, sulle bugie nel carrello, cosa scriveresti a proposito del bio? Ma ciao Davide, non c'è il bio perché ne ho trattato in modo molto esteso, sì, certo, nel libro precedente. Sì. Comunque parlo del biodinamico, che mi è molto associato. Allora, la pagina finale direbbe un po' quello che hanno detto altre persone che sono intervenute. Non è nutrizionalmente diverso, può piacere ad alcune persone perché ricercano qualcosa di diverso. Non è vero che viene coltivato, che le coltivazioni biologiche non utilizzano pesticidi, perché è vero che usano quelli naturali, ma questi possono essere altrettanto problematici per l'ambiente o anche per l'uomo e di tanti altri. Si usa il rame, che è un metallo pesante, tossico, che non si degrada nel terreno, e una volta si usava il rotenone, sostanza naturale ma che ammazzava tutti i mammiferi. E in più un'altra cosa che è stata detta non corretta, secondo me, è che è verificabile in laboratorio. No, un prodotto in laboratorio non si può verificare se è stato coltivato in modo biologico o meno. Certo, se ha dei residui di sostanze non ammesse, ovviamente non è biologico, ma ci si dimentica che il 73%, questi sono dati ufficiali, il 73% dei prodotti convenzionali all'analisi di laboratorio non mostrano alcun residuo di pesticida. Ecco, quindi. Ma voglio leggere un sms, sono tantissimi, però ce ne sono alcuni di molto cattivi, e ne leggo, molto, come posso dire, criptici. Lavoro in un'azienda chimica, tra i nostri clienti la maggior parte ha nel nome bio, natura, verde, eccetera, eccetera. Peccato che nei loro prodotti inseriscono i nostri componenti di sintesi, puntini, puntini. Bene, però bisognerebbe anche rivelarsi quando si fanno queste battute, magari intervenire anche direttamente. Ho ancora spazio per un radioascoltatore. Ferdinando da Cremona, buongiorno, veloce però. Buongiorno a lei. Sì. E grazie per quello che ci porta a riflettere. 30 secondi, quello Ferdinando. Pronto? Pronto? Sì, prego, prego, parli, 30 secondi, non ho di più. Allora, semplicemente così, i biologi ci dicono che gli insetti hanno evoluto soprattutto grazie a tutto ciò che noi utilizzavamo di chimica per combatterli. Sui prodotti alimentari impariamo tutti a leggere le etichette e poi utilizziamo magari quella parola, dando però un valore legale, naturalmente, che ha utilizzato lei prima. Solo un esempio, salame. Perché nel salame ci devono essere scritti sfarinati piuttosto che lattosio? Non penso che venga dal maiale, penso che venga da procedure che sono state instaurate dopo aver utilizzato degli starter chimici per far partire la fermentazione. Bene, grazie. Ho fatto un esempio semplicissimo. Grazie Ferdinando, ci basta un esempio. Sono veramente dispiaciuto, tante telefonate, tanti sms, e ho ancora in linea i nostri ospiti a cui avrei voluto dare maggior spazio, ma forse ci volevano 3 ore per discutere questo argomento e siamo arrivati in fondo. Io ringrazio la redazione Anita Panizza, l'assistenza Giorgio De Luca e in regia Gianmarco Ferronato. Alla prossima, magari chissà perché, potremo anche tornare sul bio, per visto il grande interesse e visto anche che c'è molto da sviscerare su questo argomento. Buon weekend a tutti da Davide Paolini.